Siamo qui su Radio Transizione di Fase, una radio che la prende bene, che prende bene. Abbiamo un po' bevuto, va bene, però va benissimo così. Stiamo registrando tecnico un studio questo particolare, ok, con il nostro fantastico programma di registrazione Audacity. Siamo qui nella sede del MOCI, del Movimento per la Cooperazione Internazionale, e accanto a noi abbiamo un esponente, mitico, possiamo dirla così, della città di Cosenza, uno che già al liceo scientifico Fermi, che si trova di fronte a noi, facciamo proprio scene di furore, ma proprio scene di furore, e noi lo sappiamo perché insomma, ci conosciamo insomma da un po'. Ora in questo momento questo personaggio molto mitico sta attingendo alla nostra bottiglia. Tu sei d'accordo con questo fatto? La bottiglia è condivisa, però condivisa in maniera solo. E che parole sagge Peffone, è bravo il nostro tecnico. Allora, abbiamo qui con noi Franco Cirino. Che ci dirà che cazzo sta facendo tu qua? Bella domanda, no? Bella domanda. Io in questi giorni di ferie immensa sto, come poi del resto faccio ogni giovedì dalle 16 alle 18:30-19, teniamo questo sportello legale per la tutela e la difesa dei diritti dei migranti, da poco titolato alla memoria di Gigi Commiso, sempre qui facendo parte all'associazione Baobab. Nel periodo della fiera teniamo aperto lo sportello tutti i giorni dalle 3 e mezza fino alla sera alle 9, per raccogliere le istanze che ci provengono dai nostri fratelli migranti che sono giunti in città per la fiera. L'apertura quotidiana è iniziata oggi e voglio già dire che ben 9 persone si sono presentate allo sportello in quanto desiderose di consigli e di soluzioni dal punto di vista giuridico per quanto riguarda il loro status, perché comunque sappiamo benissimo che il fenomeno dell'irregolarità e della clandestinità è assolutamente super diffuso. E non a caso il tema di quest'oggi, di quest'anno, di questa 11ª edizione di Fiera Immensa è proprio l'invisibilità, gli invisibili, questi migranti che sono invisibili, se sono privi soprattutto dei famosi documenti che permettono loro di avere una presenza, diciamo così, regolare sul nostro suolo nazionale. Comunque volevo chiederti, Franco, questa fiera immensa la vedi potenzialmente come un momento di elaborazione non solo, diciamo, assistenziale, perché non è quello assolutamente, ma come un momento di elaborazione politica per la nostra città, una città che comunque ultimamente vive nell'anguore, nel lassismo forse, e nella invisibilità stessa dei cittadini che molte volte non comprendono, non conoscono, ecco, più che comprendono, la realtà e le varie realtà dei migranti che comunque vivono l'area urbana. Insomma, tu come la vedi questa affermazione che hai fatto proprio in questo momento? Guarda, io credo che a Cosenza questa storia della, innanzitutto, Fiera di San Giuseppe, che è il motivo per cui poi tutte queste persone giungono a Cosenza. Io sono qui, abito qui da 35 anni e ricordo da sempre, diciamo, la fiera, sono sempre andato e c'è stata sempre questa presenza massiccia di ambulanti stranieri, magari all'epoca non si chiamavano clandestini, all'epoca non si chiamavano irregolari, all'epoca si chiamavano cugini. Ecco, mi piace pure considerare come la questione sia scivolata verso un becero populismo. Ci basta pensare al confronto che si può fare fra gli anni 80 e oggi, perché quando noi tempo fa, anche passeggiando per la fiera, incontravamo queste persone magari di colore che vendevano le loro mercanzie, noi le chiamavamo cugini. Le chiamavamo cugini, abbiamo avuto sempre un atteggiamento di rispetto nei loro confronti in quanto cosentini. Sono stati sempre parte viva della nostra Fiera di San Giuseppe e probabilmente immaginare una Fiera di San Giuseppe solo fatta da mercanti italiani non renderebbe giustizia alla valenza e alla complessità e alla struttura della fiera stessa, che mi piace pure ricordare come questa fiera sia ultrasecolare, che le sue tradizioni si perdono veramente nella notte dei tempi, nel mezzo medioevo. Federico II. E che già all'epoca, Maria suggerisce Federico II, ce l'avevo sulla punta della lingua, e che già all'epoca comunque per presenziare a questa fiera i mercanti giungevano da parecchie zone, quindi anche già le prime edizioni della fiera erano popolate da persone del luogo che normalmente svolgevano il ruolo di acquirente, ma a fare la fiera erano gli stranieri. Ma io senti, a questo punto una domanda a Marcord te la voglio fare. Te la voglio fare perché è importante. È inutile che gli ascoltatori, il pubblico qui presente mi fa gesti e mi dice: ma che stai dicendo? Bip, bip. Insomma, Franco, tutti noi ricordiamo la figura di Franco Cirino con delle magliette addosso durante la fiera di San Giuseppe, che vendeva magliette fatte insieme a Antoni. Insomma, tu come venditore alla fiera di San Giuseppe, che cosa ci puoi dire? Com'era vendere alla fiera le magliette di Toni? Posso correggere la Marcord? Sì. Allora, Maria, forse perché il Canadian Whiskey cammina, ruota, ha immischiato due fatti, ma noi lo perdoniamo. E ve li spiego io i due fatti quali sono. Io una volta andai ad una manifestazione antiproibizionista a Napoli nel lontanissimo 93. Partì questa comitiva da Cosenza con una due cavalli celeste e giungemmo a Napoli quando, mi ricordo, posso citare due striscioni, sì, che ci fu la polemica, perché ci fu il corteo antiproibizionista. Il giorno prima invece c'era una partita di calcio al San Paolo, attori, cantanti contro la droga. E mi ricordo che venne esposto questo striscione, pure il Vesuvio ha smesso di fumare, e invece poi il corteo antiproibizionista del giorno dopo si aprì con lo striscione: se fumamo pure il Vesuvio. È bellissimo là a Piazza San Francesco, ci siamo veramente divertiti. Però che cosa c'entra col fatto della fiera? C'entra che poi andai a Resina, ad Ercolano, al mercato americano, a comprare queste magliettine americane dell'Adidas, che all'epoca stavano per andare di moda, qua erano introvabili. E io le acquistai al venerando prezzo di 3.000 lire l'una. Ne ho comprate una ventina e poi mi sono messo alla fiera di San Giuseppe e le ho vendute in una mezza giornata a 20.000 lire l'una. Mi ricordo che poi furono belle sere, insomma, con quel bottino. Le magliette di Toni invece, Maria, le vendevamo alla Festa dei Popoli, all'università. Proprio sempre nel secolo scorso. Erano le magliette di Toni, Ciccio Bruno, che voglio salutare, se ci sente non credo, però Ciccio, fatti vita, tanti altri artisti che insomma all'epoca Carletto Scornai Yankee, che faceva le magliette di serigrafia. Carletto Scornai Yankee, salutiamo Carlo Scornai. Facevamo le magliettine con l'alcol, no, l'acetone, insomma, quei bei fatti. Sicuramente c'è da dire una cosa, che proprio per la nostra tradizione che si sviluppa a fianco a questa fiera, la fiera viene sempre vissuta come un momento dove io immagino che ancora oggi i ragazzini di 12-13 anni si possano mettere qualche soldino da parte per chi puccia la fiera. Cioè la fiera comunque rappresenta veramente un momento di libertà. Poi all'inizio della primavera, mi ricordo questa cosa anche bella, mi piace sottolineare, arrivare alla fiera col cappotto e il maglione, perché comunque è 19 marzo e dopo i primi 200 metri rimanevi con la magliettina, tutti sudati, insomma, sono bei ricordi. Certo, sempre presenti questi migranti, sempre molto un rapporto buono con l'acquirente e col pubblico, devo dire questo. Ok, beh, insomma, questo intervento tutti i gigifici dalla chat di transizione di fase, alla quale potete accedere dal nostro sito andando sull'apposito pulsante e scaricando di Java se non l'avete sul computer. Jiu-Jitsu ci dice bellissimo intervento questo, grazie Jiu-Jitsu, ma insomma quando si parla fra di noi le cose vengono sempre meglio, lo dobbiamo dire. Ad ogni modo, insomma, ora ma la smetti di nominarmi sempre Jiu-Jitsu, no? Jiu-Jitsu! Jiu-Jitsu! Jiu-Jitsu! Questo è sempre l'effetto della CN Tower. La gente ci dice stai proprio di fuori. Ma non è no, allora su il nostro tecnico per equilibrare. Il nostro tecnico dice salutiamo Jiu-Jitsu. Sei entrato nell'ottica. E poi non lo so se vogliamo intervistare qualcun altro oppure possiamo dare un po' di musica. No, no, no, secondo me se mi date l'assenso io intervisterei qualcuno. Alla mia sinistra. Alla nostra sinistra c'è qualcuno da intervistare. Lascia la postazione con whisky incorporato. Perché ti viene qui, può anche bere un po' di whisky. C'è questa privilegio. Solo i militanti, possiamo dirlo, perché facciamo discriminazione. Solo i militanti possono bere whisky. Siamo d'accordo, i militanti hanno il diritto. I militanti hanno il diritto di bere, secondo me. No. Perché io so che qualcuno ha già brindato al compleanno di qualcuno. È vero? Io stesso attinto alla fonte. Comunque, insomma, ritorniamo seri. Io vedo una persona seria, due persone serie che si stanno appunto incontrando qui. Uno, il più serio di tutti. Un più serio di tutti. Mi danno conferma dal pubblico. Sì, sì. È un più serio di tutti, che infatti secondo me è una poco che sta pure diciamo pure il più pesante. Il più pesante di tutti. Che era poco secondo me ne sta pure schifando. C'è di cazzino, di caga. Su una carta arancione con questa bandiera notabile in una sede. E vabbè, basta, non parliamo più perché se no sconcludiamo. Insomma, questa fiera immensa, undicesima edizione, è un bordello, è un poco bordello, non lo so. E poi, che dici? Non lo so, possiamo sentire secondo me il nostro ospite, che è meglio. Allora, ospite. Ospite. È a casa sua. È a casa tua? No. No. Vicino. No. È vicino, lui è un vicino di casa. Insomma, vicino di casa del Scipio Arialdo, il centro sociale della città di Cosenza, che ultimamente, diciamo, si sta veramente spendendo tanto per varie questioni, dal prendo casa, dalla questione dei migranti, alla questione anche del NOTAV e della solidarietà a tutto il mondo che lotta per un futuro migliore. Insomma, Cipio Arialdo, che cosa ci dici di questa fiera immensa? Tocchiamo Cipio Arialdo, va bene? Mi ha guardato un po' male, lo so. Cipio Arialdo, cosa dici di fiera immensa? Buonasera a tutti. Sono Ferdinando del Rialto, se no poi si creano forme di strane di intendere le persone che lo vivono. La fiera immensa di quest'anno è come quello che noi viviamo giornalmente nelle nostre giornate, nella nostra vita è precario. Precaria, quindi è una fiera immensa precaria. Ed è precaria perché la situazione che attualmente viviamo comunque non ci permette di dare tutti i comfort che noi vorremmo ci fossero, diciamo. Al di là che non ci sono due dormitori che ospitano, diciamo, 100-150 persone. C'è una mensa che con le mille diatribe che sicuramente saranno state elencate dalla radio comunque è riuscita a partire, speriamo domani di renderla sempre più accogliente, sempre più dignitosa. Credo che come al solito Fiera Immensa ha un ruolo centrale da due punti di vista. Da un punto di vista dell'accoglienza in quanto tale, che al di là della precarietà che diciamo noi con la nostra precarietà riusciamo a mettere in campo, però dà una forma di accoglienza che è, come dire, diversa rispetto a quella che noi giornalmente vediamo che viene data ai migranti. L'accoglienza che giornalmente noi vediamo data ai migranti è l'accoglienza data nei progetti SPRAR, nell'accoglienza data nei CAR, nell'accoglienza data nei CIE e nei CPA di questa regione, di questa nazione. L'accoglienza che noi vediamo in questi giorni è un'accoglienza completamente diversa. Noi non siamo paramilitari, non siamo associazioni, diciamo, che gestiscono, almeno una buona parte di noi che gestiscono queste, che gestiscono appunto i CAR, i CIE e quant'altro. Quindi c'è una conformazione dell'accoglienza che va nella vera solidarietà, nel vero scambio culturale, e in un'accoglienza senza altri fini, senza una, diciamo, una, uno scopo che è quello di lucrare sulla loro vita. L'altro aspetto è quello là, diciamo, il fatto che creare una situazione, soprattutto quest'anno che, diciamo, lo ritroviamo al centro della città, e quindi è al centro della fiera, quindi ha una visibilità maggiore rispetto a, agli altri anni, diventa come al solito comunque un presidio antirazzista, un presidio contro il razzismo, contro la discriminazione razziale. E mettere in campo una cosa del genere in questa fiera, con questa dislocazione, ha una sua funzionalità, e da un punto di vista pratico, e da un punto di vista, diciamo, della denuncia, e da un punto di vista politico, perché comunque c'è una visibilità tale che ti riesce a mandare un messaggio alla città, riesce a mandare un messaggio alle stesse persone che vengono a fare la fiera, che è quella della solidarietà, è quella dell'antirazzismo, è quella, transizione di fase, è quella di una netta opposizione alle discriminazioni razziali. Bene, e questo intervento è stato veramente, ci ha riportato un po' sulla retta via, va, insomma, nella realtà, dai nostri scleri alcolici forse. Però io ti volevo chiedere una cosa, Ferdinando. La giornata di oggi è stata molto caotica qui nell'area occupata, perché molti dimenticano che è così, nell'area occupata dell'ex officina della Ferrovia della Calabria. Tu ci puoi dire, insomma, come l'hai vissuta questa giornata? È molto concitata, perché ci sono stati problemi tecnici dei quali ancora non abbiamo parlato, in verità, dei problemi tecnici che ci hanno impedito di avere la mensa laddove l'abbiamo sempre avuto, ovvero nella sede dell'associazione Stella Cometa. Oggi come l'hai vissuta questa giornata? Insomma, ci sono state riunioni, non si è capito bene, c'è stato praticamente un delirio, un vero autentico delirio, tant'è vero che ora le officine Babilonia ospitano, lo diciamo come anteprima, come notizia scoop, ospitano la mensa per oggi. Poi domani, in realtà, io non so sinceramente che cosa succederà, non so se tu puoi dare delle informazioni nuove rispetto a quello che sarà la giornata di domani, ma volevo sapere, insomma, tu come l'hai vissuta questa giornata molto molto molto difficile. Che sia stato un delirio, diciamo, non è una novità, visto che quest'area, seppur occupata, è un delirio costante, diciamo, no? Fa parte, ormai il delirio fa parte in maniera centrale delle nostre cose. Comunque, al di là di questa battuta, che può agli ascoltatori magari può anche non interessare, insomma, le modalità per cui si è deciso di fare la mensa all'Officina Babilonia, perché nei giorni, il giorno prima, diciamo, della reale partenza della mensa, durante alcuni lavori di ristrutturazione del tetto, sono cadute delle lastre di Eternit nel luogo dove doveva essere allestita proprio la mensa. Quindi si è pensato bene, almeno un gruppo di noi ha pensato di proporre al comitato di fiera in mensa di spostare la fiera, di spostare la mensa in altro luogo, per evitare, diciamo, di mettere a rischio le persone che venivano a mangiare qui. Una scelta che effettivamente evidentemente non ha avuto il beneplacito da parte di tutti, però, come dire, in un momento in cui ci sono tante battaglie ambientali contro, diciamo, le devastazioni ambientali. Nel momento in cui ci sono due sentenze in Italia che condannano chi ha lucrato sulle spalle degli operai dandogli sì il lavoro ma distruggendogli allo stesso tempo la vita, parlo sia della ThyssenKrupp sia del processo dove sono stati condannati sulla questione dell'Eternit, ci siamo sentiti di dire evitiamo di farla lì dentro, per semplice fatto che si era creata una camera, diciamo, iperbarica di amianto. Non per dire che, diciamo, in quest'area non c'è l'amianto, assolutamente, lo abbiamo anche in questo momento sulla nostra testa, certamente è trattato, è completamente diverso rispetto a quello che si è rotto nella sala mensa. Però, insomma, ci siamo sentiti la responsabilità di quantomeno dare un segnale e dire vabbè, qua facciamo le battaglie ogni giorno contro queste cose, ci battiamo per l'acqua, ci battiamo per i beni comuni, ci battiamo per questo, ci battiamo per quello. Ci è sembrato allucinante mettere in campo una mensa in un luogo dove era caduta da poco, 12 ore prima, una lastra di Ethernet. Qualcuno potrà porre delle critiche dicendo vabbè, ma voi mi venite a fare questo ragionamento quando in tutta l'area avete l'Ethernet. È vero, in tutta l'area abbiamo l'Ethernet, ma noi da tempo abbiamo chiesto la rimozione dell'Ethernet in quest'area. Da tempo l'abbiamo chiesta e aspettiamo, diciamo, che lo facciano, rispettando però le realtà che vivono quest'area, perché alcuni potranno leggere, il comune in primis sta leggendo questa storia dell'Ethernet per, diciamo, togliere di mezzo qualche realtà che può dare fastidio alla loro amministrazione. Ma noi lo chiediamo perché teniamo alla salute dei cittadini di questa città e pensiamo che l'Ethernet debba essere bonificato. E qualche tempo fa è uscito un articolo che secondo me è una velina data ai giornali, è dopo una polemica nata fra il rialzo e l'amministrazione comunale, è da una velina che viene data secondo noi da alcune associazioni che vivono quest'area sulla questione che c'è l'amianto in quest'area e che c'è soprattutto sul rialzo. Noi abbiamo scritto, insomma, lo diciamo da più tempo, il rialzo è l'unico spazio che non ha l'Ethernet sulla sua testa. Quindi noi, anche nel momento in cui decideranno di fare la bonifica, diciamo che non ce ne andiamo. Anzi, ci rendiamo disponibili a dare appoggio a quelle realtà che magari per via dell'Ethernet dovranno abbandonarla per un periodo prima che ci mettano un nuovo delle nuove tettoie. Quindi noi possono fare tutte le bonifiche che vogliono, non ci muoviamo di stanziare, ci rendiamo disponibili a dare uno spazio anche agli altri, ma si scordassero che utilizzano l'Ethernet come un cavallo di Troia per, diciamo, rompere quelle attività che svolgiamo giornalmente nei nostri spazi. Ma io, Ferdinand, un'ultima cosa te la volevo chiedere, se ci puoi dire brevemente che cos'è il rialzo, perché è un centro sociale che c'è da alcuni anni, è vero, però diciamo ha avuto una bella evoluzione nel corso degli anni. Io ricordo, insomma, le prime riunioni che si facevano alla Villa Vecchia, addirittura per parlare, insomma, della necessità di avere uno spazio nuovo in città. E ora finalmente uno spazio nuovo, tanti spazi nuovi in realtà ci sono in città, ma il rialzo, questo non lo dico perché lo voglio sapere io, perché mi vedo, stiamo sempre insieme. Però vogliamo dire a transizione di fase che cos'è il rialzo, che cosa fa, brevemente, insomma, come vuoi. Non non è diciamo, semplice raccontare dal 2007 ad ora, non ci arrivo. Però insomma, quello che spinse il collettivo che diciamo occupò il rialzo 2007 era sì una voglia di spazi liberati in città, ma era anche, si individuò proprio quest'area che era già stata sanzionata, se qualcuno di voi si ricorderà, dalla federazione senza nome, il 2004, si decise di, il 2005, si decise di sanzionare, di venire qua e per riaprire spazi, diciamo, come spazi di libertà nelle città, spazi di socialità, spazi dove si può fare politica, e per mettere un freno concreto alla voglia di speculazione che c'era in quegli anni su quest'area. Non ci dobbiamo dimenticare che quest'area vale 6 milioni di euro e che è l'unica area vergine rimasta sul tracciato di Viale Mancini, che è un tracciato che è stato sì, diciamo, per come era stata pensata la strada per riuscire a rompere il traffico cittadino, però è stato anche il volano per la costruzione di palazzi che hanno apportato, diciamo, cassa ai palazzinari e a chi sta dietro i palazzinari. Non è una notizia che diamo noi, diciamo, la DIA, che è la direzione investigativa antimafia della Calabria, qualche anno fa dichiarò che la Calabria era una lavatrice del denaro dell'Andrangheta. Qualche giorno fa, in un incontro con il sindaco rispetto alla questione dei migranti, gli ponemmo questa dichiarazione e ci disse: ma come? Ma quale Andrangheta? Dov'è questa mafia in questa città? Dove sono questi palazzini? Tutta gente per bene. Benissimo. Sicuramente saranno amici suoi, è chiaro che nessuno va contro i propri amici, però, come dire, diciamo che ci sono stati per anni dei processi sui pentiti di mafia in questa città che sono stati dichiarati inattendibili in una prima fase, poi in una seconda fase gli venne dato di nuovo, diciamo, agio di essere ascoltati per test attendibili, che scagionarono, e non ultimo c'è una dichiarazione uscita sulla Gazzetta del Sud, che i pentiti di mafia scagionavano Eugenio Grimoli, il quale era stato arrestato, aveva avuto confiscate tutti i suoi beni e con le dichiarazioni dei pentiti di mafia ha riavuto tutto. Quindi questo per dirlo diciamo che in questa città, come dicevo, chiudo, non c'è la mafia. Andiamo avanti. Quindi, diciamo, il rialzo nasce come opposizione concreta a questo stato di cose. Sì, nasce nel 2007, ha avuto mille transizioni, no? Transizioni di fase.org nasce per questo motivo, perché ci evolviamo sempre. Non rimaniamo mai. Poi negli ultimi anni si è stato messo su un comitato per la casa che nasce proprio dal rialzo, che attualmente vede due palazzi occupati del centro storico, sempre come forma, diciamo, sì, di riappropriazione di un diritto, di uno dei diritti fondamentali negati, sia come opposizione alla logica della speculazione dei palazzinari sulle questioni abitative. E allo stesso tempo c'è un dormitorio che nei suoi mille limiti comunque dà ospitalità a 20 migranti. Da un po' di tempo, potrà sembrare strano a questi microfoni, di fianco a noi c'è una moschea, cosa che in questa città era stata relegata in un posto vicino alle poste, diciamo, un posto vicino alle poste che aveva mille limiti, e al di là, insomma, di tutte le questioni relative alla socialità, che dove vengono fatte feste, sala prove e dibattiti e quant'altro, è evidente che in questo momento storico bisogna anche, da un'analisi collettiva, capire qual è ancora il ruolo degli spazi sociali nelle città. Bisogna capire se ha ancora senso parlare di spazi di socialità o cominciare a parlare di spazi che cominciano a dare delle risposte reali ad alcune problematiche che si vivono nelle città. E il rialzo da una parte lo fa sulla questione abitativa, da un'altra parte cerca di farlo sulla questione della socialità con gli studenti medi o con chi vive l'aspetto ludico, però diciamo che è nostra propensione a cercare di mettere in campo nello spazio quante più attività possono dare un servizio reale alla città. Quindi questo per avere chiesto, io ho cercato di mantenere un po', però poi si allarga sempre. Va bene, insomma, abbiamo ascoltato che cos'è il rialzo e abbiamo sentito anche una notizia veramente importante, quella che è stata la giornata di oggi. Lo ripetiamo, praticamente che cosa è successo? Fondamentalmente dal 2007 Fiera Immensa si svolgeva qui e aveva un'area nella quale, lo diciamo per chi non conosce, ci sono una serie di associazioni di diversa natura, da quelle prettamente cattoliche a quelle laiche, ai centri sociali, a quelle anarchiche, insomma, eccetera eccetera. Preghiamo le persone che fumano ancora di fumare lontano da me, per favore, grazie. Teoricamente fuori. A ogni modo, niente, che cosa è successo oggi? Annualmente dal 2007 si svolgeva la Fiera Immensa, come spazio di mensa era riservato quello di una determinata area, di una certa associazione. Oggi invece si è dovuti andare via da Stella Cometa perché c'era una serie di problematiche relative soprattutto all'Eternit. Il tetto che di Eternit in molti di questi locali è stato manomesso, non capiamo bene come. A ogni modo è stato impossibile svolgere in quell'area la mensa, quindi si è deciso di spostare la mensa nella associazione delle Officine Babilonia, che ha dovuto rinunciare al programma culturale per questa sera e a ospitare chiaramente la mensa in favore chiaramente di tutte le persone che hanno necessità di usufruire di questo servizio. E abbiamo ascoltato quello che è il centro sociale Rialzo, il CPU a Rialzo, dalla voce di Ferdinando, e ora io direi di mandare un po' di musica e poi di continuare con le varie interviste, perché ora, lo diciamo, finalmente innanzi a noi ci sono tante persone che alcuni ci salutano, no, non vogliamo intervistare tutti, solo chi vuole. Però vogliamo avere intorno a noi tante persone amiche, tante persone, pure che sono nemici, a noi non ce ne fotte un cazzo, vero per favore? Certamente, noi vogliamo chiunque. Se sono nemici meglio. Se sono nemici meglio mi piace. A ogni modo, il nostro tecnico, io un rimbombo pazzesco se mi affianca. Sono le mie cuffie. È bellissimo questo fatto, ci piace molto, magari anche chi è in ascolto ci può sentire in questo rimbombo. A ogni modo, bene, abbiamo parlato veramente, veramente tanto. Ora basta, mandiamo un po' di musica, vero che conosco? Certamente, via, vai con la musica. Che così salviamo anche. Quindi mandare la musica dopo. Sì, per chi. Ok, no, se no si appesantisce, ok, dopo. No, mi fuma la sigaretta, posso. Ok.